Scusate l'entrata un po' così trionfale. Buongiorno a tutti e tutte, vi chiedo scusa per il ritardo, a cui ormai probabilmente vi sarete abituati e abituate. Ma appunto stavo cercando di rifinire le ultime cose per la puntata di oggi. Alcuni fun facts. Mercoledì 8 aprile 2020. Come mai vi ho voluti radunare e volute radunare intorno a questo programma per oggi, millantando addirittura, no? delle grandi ballate lunari, appunto perché insomma pensavo, mi piace molto l'idea di fare due chiacchiere su questo nostro satellite. Come mai? Perché io non so voi, ma dopo, cioè da un paio d'anni a questa parte, mi sono accorto che effettivamente la luna mi stuzzica parecchio. In sottofondo il buon Debussy, a proposito di satelliti. E insomma, a seconda di dove ci troviamo nel mondo, e nella nostra cattività ci troviamo in Italia, potremmo osservare appunto questa grande, grande, grande luna. Luna detta rosa. E sembra essere appunto la superluna più importante di quest'anno. La prossima... Ah, attenzione, tra 3 anni, ragazzi. La prossima superluna notevole si verificherà il 21 gennaio 2023. Ma cosa vuol dire superluna? Cosa che in realtà agli astronomi non piace, ma agli astrologi piace parecchio. Lo scopriremo dopo la prossima canzone. E soprattutto la mia domanda è: ma a voi questa luna, cioè, ve la fa salire un po'? Che io puntualmente dormo strano, cioè anche stanotte ho dormito bene, però era un sonno particolare. Io la sentivo lei dentro di me, tutta l'acqua a ribollire, eh? Ammetto che oggi sono arrivato un po' freddo, mi devo scaldare anch'io, ci sono un po' di cose che devo connettere a parte le sinapsi. Intanto si parte, loro sono i Rockets che ci portano via, via, via, lontano da qua. How it all began. Allora, si ha una superluna quando il nostro satellite si trova nella fase di plenilunio, ovvero di luna piena, e nello stesso tempo nel punto più vicino alla Terra, ovvero il perigeo. Da non confondere con il perineo, mi raccomando. Questo momento avverrà proprio, appunto, tra la notte di ieri e la notte di oggi, a seconda di dove ci troviamo. E nell'occasione potremo accorgerci che la Luna sarà un po' più grande, con una luminosità decisamente maggiore. In realtà la Luna, attenzione, non è che è più grande, però così ci sembrerà. Il termine superluna è stato coniato da un astrologo, Richard Knoll, nel 1979, e non è ben visto, appunto, come dicevo, dalla comunità scientifica. Infatti gli astronomi preferiscono riferirsi al fenomeno con la meno abbordabile coppia di termini perigeo SYZYGY, cioè SYZY. Il primo termine indica il periodo in cui la Luna si trova più vicina alla Terra. Il secondo invece viene usato per indicare l'allineamento di tre corpi celesti appartenenti a un medesimo sistema gravitazionale. Nella fattispecie sarà appunto una luna rosa, cosiddetta. Una luna queer, ragazzi. Loro erano i Rockets con Galactica. Vi direi che la prossima che ci possiamo sentire è una canzone che a me, non lo so. Fa sempre un po' così, mi fa sempre un po' strano. È una canzone sicuramente molto sognante, che ha un che veramente di straniante questa canzone, ed è indubbiamente spaziale, pur non trattando direttamente della Luna. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Sandman, yes, bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy. Con Mrs. Sandman, appunto, portami un sogno. C'è questo uomo di sabbia, tra l'altro, che io trovo, e non solo io, trovo un po' oscuro, ecco, che appunto di notte aiuta a portare sogni alle persone che lo invocano. E io l'ho scoperto, tra l'altro, scusate, sto pezzo tramite un fumetto che è Morgan Lost. Un fumetto abbastanza dark per certi aspetti. E altra cosa, fun fact, Uomo di Sabbia era anche uno dei l'uomo d'argilla, no? Era anche uno dei cattivi di Marvel e mi ricordo mi fa abbastanza paura. Attenzione però, perché la Luna, come ben saprete, è al centro del sistema solare, Nokia. Non brilla di luce propria, ma appunto brilla di luce riflessa. Deriva, sembrerebbe, la parola luna dalla radice indoeuropea leuk, cioè splendere. Così attesta appunto il dizionario etimologico di Manlio Cortellazzo, che salutiamo. Le parole luce e luna rimandano dunque l'una all'altra come in una specie di tautologia. Leuk in greco significa leukos, cioè bianco, ma anche luce, e in latino lux. Eppure, primo paradosso, appunto la luna non ha luce, è buia, e, secondo paradosso, la sua superficie non è bianca ma nera come la lavagna o, nelle regioni più chiare, grigia come il cemento. Ci sembra bianca solo per una sorprendente illusione percettiva. C'è uno psicologo della Gestalt che nel 1929 fece appunto un esperimento e sospese un disco nero in una stanza nera, lo illuminò e sembrava bianco. La Luna è per la Terra uno specchio del Sole, è uno specchio a geometria variabile, dalla falce più esile alla sorta rotondità del plenilunio. Ma c'è in questo specchio spaziale un altro fenomeno curioso, oltre a quello smascherato da Gerb. Nella fase crescente e calante la Luna diventa un doppio specchio. La luce che ci rimanda è in parte quella riflessa dalla Terra. Lui era Ray Charles, con Moonlight in Vermont, quello che stiamo sentendo in sottofondo. Va da sé che non può che rispondergli Mancini con Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. Ciao Henry Mancini! E salutiamo anche il gatto di Tiffany. Che in realtà la luna potrebbe non essere l'unica luna che abbiamo. The moon is Earth's only natural satellite, right? Maybe not. In 1999, scientists found out that a 3-mile or 5-kilometer wide asteroid may be caught in Earth's gravitational grip, thereby becoming a satellite of our planet. Criton, as it's called, takes 77 years to complete a horseshoe-shaped orbit around Earth, the scientists say, and it will remain in a suspended state around Earth for at least 5,000 years. Capito? Quindi, quando parliamo della Luna, non diamo mai per scontato nulla, perché lei in realtà ci ha fregati dal primo momento. Lei, a cui tanto vogliamo bene, ci ha fregati dal primo momento. Comunque, alcuni facts molto più terreni. Allora, siamo a un mese dal lockdown circa, perché oggi appunto è l'8 aprile, che è un mese dopo. Abbiamo un trend abbastanza discendente in Italia, soprattutto in Lombardia, ma purtroppo i decessi ci sono ancora. E a proposito di uova di Pasqua, vi voglio dire un'altra cosa simpatica sulla Luna. La Luna, che non è un formaggio, non è neanche una sfera, bensì la carina è una egghead, ha una forma un po' a uovo. Le uova, 2 uovi, 4 uovi. Se andate fuori e guardate su, una delle small ends, no, delle piccole punte, is pointed right at you. E il centro della massa della Luna non è così geometrico come... cioè, non è al centro geometrico del satellite. È un pochino spostato dal centro. Quindi siamo a 2 cazzate che oggi vi ho detto. 2 o 3. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo, così se vi dovesse interessare, è Painted Moon dei Silencers, direttamente dagli anni 80, ma in realtà ci viene a trovare un'amica molto lunare, con una canzone ancora più lunare nella fattispecie. Lei è Fever Ray. Thank you. Fever Ray, To the Moon and Back. Hey, remember me? I've been working like crazy. I know you're tangerine and your kiss is sweet and creamy. E fa eco alla buona Fever Ray un'altra voce della elettronica cantautorata, che è Feist. In questo caso remixata, ma la terremo così in sottofondo. Ora, se vogliamo continuare a pensare che la Luna sia effettivamente l'unico satellite della Terra, vi posso dire che si pensa sia stata formata circa 4,6 miliardi di anni fa, quando un corpo della grandezza di Marte, un martone, è entrato in collisione con la Terra. Il 20 luglio del 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta sul suolo lunare. Appunto, il termine superluna è un termine astrologico e infatti in astronomia si parla di perigeo lunare. La Luna si allontana dalla Terra di circa 3,8 cm all'anno. Quindi dai, potete fare un po' i calcoli, no? E la prima canzone mai registrata dall'uomo è Au clair de la lune. Non vi parlerò ancora di Galileo perché io comunque non sono d'accordo con Galileo, Dai, non sono d'accordo. Perché, cioè, non ci credo. Al centro del sistema solare c'è la Terra, tutto gira intorno a lei. Noi siamo i migliori, siamo i più forti, abbiamo sempre ragione. La natura non ce ne frega un cacchio, hai capito? Noi siamo gli uomini della Terra. I chick chick chick must be the moon. You're the man. must be the moonlight, must be the moonlight, must be the moonlight, it must be the moonlight. Pink Moon meaning, what is the meaning behind the Pink Moon? Come mai ce la vogliamo chiamare rosa? E poi rosa è veramente il colore delle femminucce? Delle maschiettucce? Delle maschie? Dei femminielli? Tutto si comprime oggi, tutto collassa. Oggi è molto Inception, ragazzi, nella nostra vita. È chiamata così the Pink Moon, the Grass Moon, the Egg Moon and the Pascal Moon. Ma si chiama così in merito a delle cose floreali. Comunque è una cosa che viene dai nativi americani. Of the moss pink of the wild ground phlox. Ragazzi, io sono un disastro in gardening e cose del genere. Sono i floghi. Ma chi ha mai visto? Non avevo mai sentito che esistessero i floghi. Li ho visti ma non li avevo mai sentiti. La luna più grande del sistema solare è Ganimede, che è la prima luna di Giove. E se appunto ci dovessimo mettere in viaggio verso la luna, ci impiegheremmo 6 mesi a 95 km orari, quindi tipo con un cinquantino, con un motorino cinquantino senza il blocco velocità, probabilmente sì, in 6 mesi Potremmo farlo. E mi chiedo quale potrebbe essere la nostra la colonna sonora di un viaggio verso la luna. Potrebbe essere, che ne so, My Moon My Man, Pink Moon, Moonlight in Vermont, ve l'ho già messa. O magari potrebbe essere una cosa così, lontano dal casino, dalla celebrità e a tutte le cazzate terrestri. Thank you. blue day. Brian Eno. Da Apollo, Atmospheres and Soundtrack, 1983. E leggevo, tra l'altro, che esistono gli alberi lunari. A proposito di Apollo. Cioè, l'astronauta Stuart Rusa, nel 1971, facente parte della missione Apollo 14, si è portato un po' di semi con sé. Poi li ha riportati sulla Terra e ne ha piantati. Sulla Terra ci sono circa 400 alberi i cui semi si sono prima fatti un viaggio lunare, una crociera, e poi sono stati germinati, appunto, e piantati. Ma come ben sappiamo non è che Stuart Rusa è l'unico che se n'è andato lassù. C'è un tizio molto più famoso di lui che si muove da Dio. Everybody in. don't really care about us? Ed è una domanda che sicuramente ci facciamo oggi più che mai, considerati soprattutto in Italia i, no, le, gli scontri, scontrini, stato, regione, regione, comuni. No, sei stato tu, no, è stato lui, no, non è vero, ma tu lo sapevi, non è vero, no. Per non parlare appunto del never ending story al Parlamento Europeo. Però siamo quasi a un'oretta, oggi appunto siamo andati un po' lunghi, sono andato un po' lungo. Il mio viaggio non è ancora finito. Ho ancora 5 mesi davanti prima di arrivare alla Luna a 95 km orari. Faccio un giro di saluti velocissimo. Ringrazio Flavia, Papi, Jeremy per le varie rassegne stampa. Saluto Leo, saluto Nico, saluto Lorenzo che ci segnala, non la posso inserire ma ci segnala un video di Giova Solo Gem a stolfo sulla luna a cercare il seno di Orlando che è sbroccato. E per parafrasare Elio, Lori per te. Loredona, io la chiamerei Loredona oggi come oggi. Ciao Loredona. Carina che la Buna le ha lussato. E la Buna lussò. Non sono mai stato lussato da una buna, però credo potrebbe non essere un'esperienza simpatica. Alcuni fun facts. A proposito di lune, di numeri, e io di numeri ne do parecchi. Giove ne ha 79, Saturno ne ha 83. La Terra dovrebbe averne una, ma probabilmente ne ha una seconda. Come abbiamo detto prima, Marte ne ha 2, Urano ne ha 27, Nettuno 14. Ma cosa più importante, e su questo vi voglio tutti attenti e tutti attenti, Plutone non è un pianeta, ma un nanone. Piccola rassegna di libri e film sulla Luna, che non ho cercato, mi viene così. Vi segnalo sicuramente, per gli stomaci un pochino più forti, vi segnalo Moon di Duncan Jones, figlio biologico di David Jones, al secolo David Bowie. Faccio un saluto ad honorem a Kubrick, che sembrerebbe aver fatto da regia negli studi di Hollywood all'allunaggio. E non vi lascerò con questa. Stasera la luna. Perché non ve lo meritate. Però senti come suona bene. Stasera la luna ci porterà fortuna. La luna. Vabbè, mi sa che il più allunato oggi sono io qua, in tutti i sensi, I'm sorry. E un libro che consiglio ai più furbetti e alle più furbette, un libro che mi ha fatto piangere molto alla fine della sua cosa, è L'uomo che si innamorò della luna. Ed è un insolito western, è un western molto queer, devo dire, di questo ragazzo, in parte indiano, che va alla ricerca di suo padre. Ed è stato scritto da uno degli insegnanti di Chuck Palahniuk, appunto l'autore di bestseller tipo Fight Club. Quindi non vi faccio sentire i Mirage con Stasera la Luna. Ci sarebbe Patrizia Pellegrino con musica spaziale. Ce ne sono un sacco, ragazzi, qua che... Però abbiamo parlato di David Bowie e voglio farvi sentire questo piccolo estratto che a me lascia veramente senza parole. Sono 25 secondi. David Bowie sotto la doccia. Let's go. Blue, blue. I saw you standing alone without a dream in my heart. Ah. I dropped the soap. Il a fait tomber le savon. That's great, thank you very much, David. Well, I'm clean now, at least. Oh, I dropped the soap. Vabbè, genio incontrastabile. Abbiamo chiamato David e chiaramente chi più di lui è stato un po' un uomo delle stelle, no? Ci sono innumerevoli biografie su Duncan Jones che parlano di questa cosa. D'altronde lui era sicuramente più alieno di tanti alieni che abbiamo incontrato e che potremo incontrare, quindi chiaramente potete immaginare la vastità di tracce che avrei potuto mettere, ma ne ho scelta una direttamente legata alla Luna in un rework interessante di Leo Zero, giusto per non essere troppo scontati. Lui è David Bowie reworkato da Leo Zero con Keep your electric on me, oh, baby, baby. l'ho tagliato perché sennò suonavamo troppo. Però bellissimo rework di Moon Age Daydream di David Bowie. Stasera vedere la luna non sarà assolutamente difficile. La presenza di un robusto anticiclone garantirà infatti un cielo sereno e stellato su tutta l'Italia, per cui potranno osservarla tutti senza problemi. Ok, guardatevela un po' da dopo il tramonto, sarà visibile. Mi raccomando, non fatevi troppe birrette guardando la luna, non perdete la vista. Cercate la facciona della luna che vi guarda. Vi ho risparmiato l'ascolto integrale di Dark Side of the Moon perché mi sembrava davvero un po' esagerato, però appunto stilerò una lista di cose interessanti riguardo questo pazzesco satellite. Una luna fiammina, tra l'altro. Ieri mi hanno detto: mi raccomando, non ti perdere il potere femminile della luna. Io avrei voluto studiare di più, ma non posso davvero fare tutto. Una cosa importante che non vi ho detto, ma che sicuramente saprete, è che a Wuhan hanno tolto le barriere, le barricate. Ed è una cosa che sicuramente non solo a me, automaticamente, avendo vissuto un po' la storia moderna, no, contemporanea, avrete pensato a un'analogia con il muro di Berlino. Non è chiaramente la stessa cosa. Un pezzo un po' insolito, che è di questo gruppo che vi consiglio caldissimamente, che si chiama, non so come mai riuscirò a pronunciare, ma sono gli Mbongwana Star, e la canzone in questione è From Kinshasa to the Moon. E beccatevi, perché non solo hanno un bellissimo album, anzi più di un album nella loro produzione, ma sono anche dei grandissimi figli. Mbongwana Star con From Kinshasa to the Moon. Vi saluto, oggi Radio Brioschi volume 22. Sono talmente stralunato che mi sono reso conto di avere perso dei numeri, non nel senso che non trovo più le puntate, ma nel senso che proprio li ho saltati. Ma va bene così, quindi oggi Radio Brioschi 22, cifra tonda. Ci ascoltiamo un gruppo che ho visto per ben due volte dal vivo. Sono The Comet Is Coming, sta arrivando la cometa, e fanno questo impasto di jazz elettronico decisamente spaziale. Vi chiedo scusa, non ho potuto portarvi una canzone di Sun Ra, pace all'anima sua, che diceva Space is the place. Avrei anche potuto, in merito a Son Ra, suonarvi Space dei Drink to Me, ex formazione di Cosmo, cioè la formazione in cui Cosmo militava prima di essere, era il frontman dei Drink to Me e poi è diventato Cosmo. Molto figa, molto figa. L'album si chiama S, come S di satellite. Appunto, loro sono The Comet is Coming e sulle note dell'edit di Final Eclipse arriverà la storiella del giorno. Belzebù un giorno, al segreto da tutti i suoi accoliti, nel silenzio della sua camera oscura, si concesse un po' di buona cucina. Sì, perché anche il grande Belzebù era una buona forchetta. Decise di cucinarsi delle ostriche. Delle ostriche spaziali. Al che aggiunse un po' di filetto di capretto e buttò tutto in padella a rosolare. Essendo un demone, poteva fare uso della magia e in pochi minuti ebbe un filetto di ostriche demoniaco. Ringrazio tutti e tutte quelle che sono state con me. Ci rivediamo, ci risintonizziamo domani. Ci sono delle novità in arrivo. Costruirò un archivio delle puntate di Radio Brioschi, così non vi romperà più la vita a cercare quelle che vi piacciono di più. Spero che ieri lo streaming di Saturno, appunto, della puntata del sabato in replica tutta musicale e non condotta vocalmente, vi sia piaciuto. Stiamo tutti a guardare col naso all'insù stasera, mi raccomando, patatini popcorn a seguito, fate tante danze della luna. E non uscite stasera che ci sono i parlamentari mannari. Lascio con una bonus track Questa è una canzone che ha fatto parte della mia infanzia. Penso sia stata la mia prima cassetta, che si chiamava Rock and Roll. Vi saluto con Blue Moon, che è dentro di me. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my heart. You knew just what I was there. Dang, dang, dang, ding, dong, ding, blue moon.